A bordo campo di Dario Ricci. Torniamo a pedalare qui a bordo campo, perché lo sapete, il ciclismo grande passione di Radio 24, ve lo raccontano Carlo Genta, Dario Ceccarelli, un Tour de France, l'ultimo ce l'ha raccontato in esclusiva Ivan Basso. E beh, allora, mondo del ciclismo che pedala a gran velocità verso i mondiali su strada dei professionisti di Copenaghen, grande appuntamento per il 25 settembre. E allora, grande onore quello di avere ospite qui a bordo campo il CT azzurro, ma anche campione olimpico e campione del mondo, non ce lo scordiamo, Paolo Bettini. Ben ritrovato, Paolo. Grazie a voi, saluto. Paolo, allora partiamo subito dalla cronaca, ma non quella sportiva, perché con questo aeroplanino nelle acque di Piombino ci hai fatto prendere un bello spavento, un ammaraggio che hai fatto da pilota provetto all'inizio di settembre. Raccontaci un po' innanzitutto come stai e com'è andata. Ma fortunatamente ne posso parlare, sto molto bene io, nel senso che sono uscito illeso e anche mio nipote che era con me sta bene, solamente una ferita con qualche punto di sutura a un ginocchio, ma già tolto i punti, è già operativo, è già pimpante, pertanto si può raccontare con serenità. È stato un incidente strano, mi sono trovato a gestire una situazione difficile, ripeto, fortunatamente si può raccontare. Senti, alla fine è rimasta tanta paura, ma anche i complimenti dei piloti più esperti, perché l'ammaraggio che hai fatto non è certo operazione banale, tant'è che neanche nelle scuole volo viene provata per ovvi motivi, viene studiata solo in teoria e poi farla in pratica è un'altra cosa. Ma assolutamente vero, io una delle cose che ho fatto nel tornare a casa in auto è stata quella di chiamare il mio istruttore di volo che mi ha insegnato a volare. E anche lui ha detto grazie, ma quando capiti a queste parti spiegami come ha fatto, perché alla fine si racconta sempre in maniera teorica e poi farla è un'altra cosa. Mi ritengo fortunato, non bravo, comunque l'importante, ripeto, come ho detto prima, è parlarne, vuol dire che è andato tutto bene. Italia! Che macchia, sta vergogna, ve lo dico in ginocchio! Senti, è sembrato un po' un azzardo parlando di manovre spericolate, invece questo giro della Padania, hai visto quante polemiche ci sono state, quante manifestazioni, a volte anche violente nei confronti dei corridori, e quelle assolutamente le censuriamo, ma insomma un'iniziativa che ha fatto discutere. Vorremmo proprio sapere cosa ne pensa il CT azzurro. Ma guarda, io mi posso limitare a commentare la gara sotto l'aspetto tecnico. Per noi di sport e soprattutto per me, per il lavoro che sto facendo, un giro a tappe in questo momento, cioè nel momento in cui sono fatto il Giro di Padania, era fondamentale, perché il calendario di gare italiano storico purtroppo si stava smontando e molte gare importanti come la Placci sono sparite dal calendario, pertanto è stato importantissimo come avvicinamento al mondiale, anche per selezionare, per capire in che condizione erano i nostri ragazzi. Sì, è stato strumentalizzato tantissimo, è nato dalla passione di un personaggio che poi è un personaggio politico, e si è innescato tutto quello che, come dicevi, da censurare, veramente da non azioni che sono state fatte di protesta nei confronti dei ragazzi, e le parole che sono state, io c'ero in carovana, ero in gara, le parole che abbiamo preso sono veramente state fuori luogo, perché oltretutto, indipendentemente dall'aspetto politico, noi sportivi eravamo là, io a fare il mio lavoro, gli atleti a fare il proprio lavoro, le squadre a svolgere il proprio lavoro, indipendentemente dal pensiero politico. Però insomma, concordi pure sul fatto che comunque un Giro della Padania nell'anno del 150esimo dell'Unità è sembrato un po' una provocazione, senza con questo chiaramente andare a giustificare certe manifestazioni di protesta estrema. Ma l'ho detto, è stato strumentalizzato, è stato anche un'azione provocatoria che ha innescato tutta la confusione che abbiamo visto, è inutile negarlo. ripeto, non voglio entrare in merito, è giusto o non è giusto, il nome della gara è azzeccato o è sbagliato, mi limito a valutare quello che poi fondamentalmente è stato l'evento sportivo, censurando le azioni di protesta, ce ne sono state tante, guarda, ma si può protestare anche in tanti modi, purtroppo le azioni violente sono da censurare, perché il ciclismo storicamente non è uno sport violento e le azioni che abbiamo visto sono state veramente fastidiose. Pienamente d'accordo su questo aspetto. Beh, cerchiamo invece di farlo suonare l'inno nazionale a Copenaghen, no? Mondiali su strada, un percorso che tutti dicono facilissimo, Paolo Bettini invece la pensa un po' diversamente, no? Ma è un percorso che tutto sommato è facile, nel senso che non presenta salite impossibili o salite impegnative. Sarà un percorso ondulato, però alla fine della giornata i ragazzi dovranno fare i conti con 2100 metri di dislivello, pertanto da qualche parte qualche insidia c'è. È distribuita bene, nel senso che non si nota, ma c'è. Alla lunga sono convinto che può rimanere nelle gambe, e soprattutto c'è questa incognita del rettilineo d'arrivo, un rettilineo d'arrivo di 500 metri, più di 500 metri, ma con gli ultimi 500 metri in salita al 5%, e questo dice quanto sarà difficile impostare anche un eventuale volante. Puntiamo forte su Daniele Bennati, no? Che è la nostra punta, e quali invece le possibili outsider per un piano B, perché appunto per come ce lo descrivi potrebbe essere un mondiale molto complicato sotto il profilo tattico. Ma guarda, fortunatamente qualche mese fa in Italia c'era la preoccupazione che non avessimo a disposizione atleti importanti. Fortunatamente ci presentiamo ancora una volta alla rassegna ridata con una squadra molto forte. È vero, gli stranieri, le nazionali straniere hanno delle individualità che durante la stagione ci hanno messo in difficoltà su vari traguardi, ma il gruppo siamo ancora molto competitivi. Ci sono molti giovani che nell'ultimo mese e mezzo sono cresciuti molto. E siamo pronti a ogni evenienza. Poi fare nomi o meno, io qualche cartuccia me la tengo anche di riserva, giochiamo anche un po' d'astuzia. Comunque noi siamo pronti sia eventualmente a giocarsela in volata, sia ad anticipare, sia a rendere la corsa dura, siamo pronti su ogni terreno. Tornando alle convocazioni azzurre, Paolo, sono state anche le prime all'insegna della svolta doping, no? Varata dalla Federciclismo su forte impulso del CONI. Nessuna convocazione per gli atleti coinvolti in passato in questioni di doping. Siamo ad un anno zero, a una decisiva nuova pagina, oppure dovremo trovarci ancora a confronto con i problemi di sempre? Ma io spero le cose stanno migliorando a grandi passi, indubbiamente, nel ciclismo. Ha pagato tanto, ma fortunatamente i troppi errori sono serviti e servono per migliorare. Anno zero no, ci andrei cauti. L'anno zero lo vorrei vedere quando a livello internazionale tutti i regolamenti si mettessero in pari. Questa è una normativa italiana, in Italia è stato deciso di non convocare gli atleti che ricordavi, non è uguale per le altre nazioni, pertanto non siamo ancora anno zero. Diciamo che in Italia stiamo lavorando come altre nazioni per portarsi piano piano a questo famoso anno zero, ma finché non si allineeranno tutti sarà un problema. Prova, vai la scia con Paulinho, lo affianca Paolo Bettini al centro. Paolo Bettini lo passa e ormai ai 100 metri dal traguardo vince praticamente per distacco. Vai Paolo, oro! Ti sento in macchina nella tua Versilia, non è che stai già viaggiando verso Londra 2012, perché penso che per un campione olimpico, CT della nazionale di ciclismo, quei 5 cerchi siano quasi un'ossessione nell'anno olimpico. Ma ci penso, c'è da fare questo mondiale che è vicinissimo, ma è già un po' che penso a Londra, penso da quando sono andato a fare il sopralluogo al villaggio olimpico, alle strutture, ci siamo tornati ad agosto a fare la preolimpica. Sono sincero, se nel mio mandato da commissario tecnico mi dicessero che ho l'opportunità di una sola medaglia, quasi quasi da egoista direi speriamo che venga dalla gara olimpica e non da un mondiale, perché ho vinto una medaglia olimpica e so cosa significa. Poi è vero, nel ciclismo è importantissimo il mondiale, perché la maglia si porta tutto l'anno. Da atleta mi piacerebbe, in veste di commissario tecnico, portare in Italia, tornare da Londra con un atleta che magari fa suonare l'inno italiano sul gradino magari più alto di un podio olimpico. E beh, è l'augurio che condividiamo. Intanto, Paolo Bettini, incrociamo le dita e ti aspettiamo presto a bordo campo, ancora qui su Radio 24, magari per commentare una di queste splendide medaglie che ti auguriamo. Ah, speriamo, mi auguro presto. A bordo campo. Da Santiago a Santiago, un viaggio lungo migliaia di chilometri e 35 anni quello del tennis italiano. Gli azzurri, guidati dal CT Corrado Barazzutti, sono tornati infatti in Cile a giocarsi l'accesso nel tabellone principale della Davis per la prima volta dal dicembre 1976, quando l'Italia dello stesso Barazzutti, allora in campo, di Adriano Panatta, di Bertolucci, di Zugarelli, del capitano Nicola Pietrangeli e del direttore tecnico Mario Belardinelli, volò a Santiago del Cile per la finale della Coppa Davis. L'Italia di allora era quella degli anni di piombo. Il Cile, dopo il golpe militare di 3 anni prima che aveva provocato la caduta e la morte del presidente socialista Salvador Allende, viveva la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Io tengo l'obbligazione di proteggere a 10 milioni di seres che corrispondono a los chilenos che vienen a este país. Consecuencia, con la medida restrictiva yo estoy comprimiendo prácticamente a una ínfima cantidad. Serán 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pero con esta medida que estoy comprimiendo a 10.000, por ejemplo, le estoy dando tranquilidad a 9.990.000. La vigilia della partenza degli azzurri è infiammata dalle polemiche. In molti non vogliono che l'Italia parta per non legittimare la dittatura di Pinochet. In finale, del resto, il Cile è arrivato solo per il rifiuto dell'Unione Sovietica, in semifinale, di affrontare proprio i cileni. La testimonianza di Corrado Barazzutti. Quei giorni me li ricordo bene perché io ricevevo delle telefonate in piena notte di minacce. Sono stato scortato fino sotto l'aeroplano, voglio dire, da 4 macchine dei carabinieri per appunto la partenza per Santiago del Cile. Mi ricordo, voglio dire, una trasmissione alla radio con Nicola Pietrangeli e Paietta, allora credo senatore, che appunto diceva, intervistato, che non dovevamo andare, quindi insomma anche un pochino alterato, mi ricordo allora, perché rimasi un pochino sorpreso. Per cui sì, mi ricordo che quello era stato un periodo abbastanza caldo. Il Partito Comunista di allora non voleva che noi andassimo a giocare questa finale, usando un pochino, diciamo, la Coppa Davis per sensibilizzare l'opinione italiana, cioè l'opinione mondiale, sul fatto appunto che in Cile c'era una dittatura. Alla fine, grazie anche alla mediazione del presidente del CONI, Giulio Onesti, si parte. Azzurri grandi favoriti grazie a una squadra fatta di grandi personalità, caratteri diversi, convinzioni politiche diverse, ma a unire quella squadra è la voglia di giocare e di vincerla, quell'insalatiera simbolo del tennis mondiale, come ci ricorda Adriano Panatta. Tutti e 4 i giocatori e in più anche il capitano che era Nicola Pietrangeli, eravamo tutti e 5 determinati ad andare e a non, diciamo, come dire, rinunciare assolutamente a questa possibilità che avevamo, come poi è successo, di vincere la Coppa Davis, perché avevamo sempre diviso, diciamo, il fatto sportivo dal fatto politico. Poi è logico che ognuno di noi aveva le sue convinzioni, o ha tuttora, come spero, anche gli altri, le proprie convinzioni politiche, ma siamo andati lì per giocare a tennis, non per fare un atto politico. Difficile però separare volée, smash e politica nell'Italia di allora, nel Cile di allora. Ancora oggi Panatta riconosce quanto sia difficile districarsi nell'abbraccio mortale tra sport e politica. Guardi, se dividiamo lo sport, quello che fanno gli atleti in campo, e di quello che invece è diciamo, la governance, diciamo, dello sport, no? In tutti i suoi aspetti, è c'è molta più politica nello sport di quanto non si pensi, insomma, anche a livello, diciamo, giornaliero. E poi invece gli atleti che vanno in campo vanno veramente in campo per giocare e per cercare di fare una buona prestazione e di vincere possibilmente. C'è una grande ipocrisia, no, in questo senso qui, in cui non bisogna assolutamente toccare lo sport con la politica, ma insomma lo sport fa parte della nostra vita quotidiana, e come la nostra vita quotidiana ci tocca la politica continuamente in tutti i sensi, viene toccata anche lo sport. La cosa che invece proprio distacca completamente è la prestazione che si fa. Quando un atleta va in campo pensa solamente a fare quello che deve fare al meglio in tutti gli sport. Tutto il resto è logico che è politica, ma la nostra vita quotidiana è politica continuamente, insomma, no? Messe per qualche giorno da parte le polemiche, gli azzurri scendono finalmente in campo a Santiago del Cile. Barazzutti e Panatta hanno vita facile contro Fillol e Cornejo. Il punto decisivo arriva proprio dal doppio Panatta-Bertolucci, che per l'occasione indossano una provocatoria maglietta rossa. L'emozione di quel momento nella voce di Mario Giobbe. Qui allo stadio di Santiago, momenti di emozione. Adriano Panatta la palla per l'insuccesso per la Coppa. Per la prima volta in 76 anni gli azzurri conquistano la Coppa Davis. I tifosi italiani invadono il campo. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono raggiunti da Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli, Mario Berardinelli, Primo Zuccarelli, tutti in campo. Tutti i giocatori sono uniti in un abbraccio con Mario Berardinelli e Nicola Pietrangeli. Ci sono lacrime da parte di tutti. Grazie al cielo di tutti quanti i giocatori italiani. Anche noi, scusate, siamo emozionatissimi. È stato un momento veramente emozionante questo. La Davis è vinta. Nei ricordi di Adriano Panatta però restano anche gli sguardi incrociati tra le strade di Santiago. Noi eravamo abbastanza blindati perché facevamo dall'albergo allo stadio praticamente con la scorta e quant'altro, ma mi ricordo l'espressione, insomma, della grande maggioranza dei cittadini cileni di Santiago. Era un'espressione triste, insomma, molto provata da quello che stavano subendo in quel periodo lì, insomma, non c'era l'allegria, anche se poi, essendo poi un popolo, devo dire, straordinario, perché anche durante la finale non è che ci fecero il tifo molto contro, anzi, poi alla fine ci hanno anche molto applaudito, abbiamo fatto il giro di campo, per cui devo dire una grande civiltà da parte di questa gente qua. Partiti tra le polemiche, salutati al ritorno come trionfatori. Sport nazionale in Italia quello di salire sul carro del vincitore. Destino cui non scamparono neanche i nostri campioni della racchetta. Ancora Panatta. Subito dopo la vittoria in Coppa Davis ci fermammo tutta la squadra. Ci fermammo a Rio de Janeiro perché la federazione ci regalò, mi sembra, 3-4 giorni di vacanza, insomma. Per cui abbiamo festeggiato giocando a calcio in spiaggia a Capocabana con dei ragazzi brasiliani che ci facevano girare la palla intorno alle orecchie, per cui non è stato subito immediato il fatto che siamo tornati, poi siamo tornati tutto quanto, poi quando si vince, diciamo che la maggior parte della gente dimentica anche quello che erano state le polemiche, no? Ma è anche giusto che sia, viene tutto quanto abbastanza cancellato. Non mi ricordo assolutamente che ci fu uno strascico di polemici dopo la nostra vittoria. Da quel dicembre 1976, da quella Coppa Davis, che è finora l'unica conquistata dal nostro tennis, sono passati ormai 35 anni. Più forte oggi il ricordo delle polemiche o della vittoria? Panatta infila un altro servizio vincente e ci regala una risposta schietta e sincera. Ma rimangono tutte e due, logicamente. Uno non si può dimenticare quello che era successo in Italia prima della partenza, no? Sarebbe anche, come dire, ingiustificabile, no? Rimane anche la bella vittoria, logicamente, però quello che è successo in quei giorni lì, insomma, a me nella memoria mi rimane, ecco. Probabilmente se non avessi giocato a tennis sarei stato insieme ai contestatori, come tanti ragazzi in quei giorni lì, perché quando uno è giovane è abbastanza radicale, no? In certe sue manifestazioni, in certi suoi aspetti. Io invece non giocavo a tennis, facevo parte della squadra e volevo solamente andare a Santiago e vincere la Coppa Davis. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog del programma e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento come d'abitudine è per domenica prossima, sempre alle 14.30 e sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.